Bentornati sull'Arcadia, grazie a Radio Big World. La verità. Oggi voglio parlare di verità. Cos'è la verità? Ho provato a rispondere a questa domanda da molto tempo. Ho trovato inoltre che la verità è una sorta di moneta. Chi ha il potere e chi conosce chi ha la verità la usano questa verità per prendere ancora più potere. Nascondono la verità dalle masse mentre fanno a gara per controllare quella realtà a cui crediamo. Nascondono la verità alle masse e ci propinano menzogne su menzogne a cui possiamo avere accesso con la punta delle nostre dita. C'è una guerra per la verità e le persone sono in costante attacco, un attacco infinito di proiettili sotto forma di disinformazione. Analisti politici, ospiti di talk show, celebrità socialmente attive, presentatrici sexy, minigonna, vi stanno drogando. Pornografia, social media, videogames, infinito intrattenimento in streaming, siete avvelenati dagli agenti chimici che mettono nel cibo, nell'acqua, nelle medicine, la stessa aria che respiriamo. La verità evita molti, perché in molti non la cercano, perché dovrebbero. Dopo qualche anno di vita della nostra esistenza, ci hanno già detto cosa è il nostro mondo, com'è che sembra, come è stato fatto e come funziona, e perché ci chiediamo chi siamo. Ci viene detto che siamo tutti scimmie evoluti su una palla rotante che corre all'infinito nello spazio a centinaia di chilometri orari, niente di più di un granello di sabbia in un costante espansivo universo causato da un'esplosione venuta dal nulla. Perché credere in Dio? Loro si fanno chiamare uomini di Dio, ma una gigantesca scureggia cosmica è quello che dicono è il vostro Dio. Ma c'è un errore in tutto questo, nel sistema e nell'indottrinamento. Una piccola percentuale di persone rifiuta questa programmazione. Sono inseguiti da una voce che li assilla di cercare la verità dietro quello che vedono, per avere un secondo sguardo. Questo è quello che significa scegliere, la scelta di mettere a tacere quella voce, seppellendola con il dubbio e la paura, o la scelta di farla esplodere fuori da voi stessi e dichiarare le vostre tre prime parole di verità. Io non conosco niente. Queste parole sono il martello che frantuma il muro della vostra prigione di illusioni. Perché nella realizzazione che non conosci niente, siete ora pronti nel conoscere qualcosa. E da lì la vostra ricerca ha inizio. Dovete cercare. perché la verità non verrà a prendervi nello scantinato dove vi siete rifugiati. Ma una volta che la vedete, che l'avete trovata, e dopo anche il solo primo battito di ciglia, guardando la verità, scoprirete quello che gli altri hanno scoperto, che la verità è terrificante. Cose che non aveste mai creduto possibili sono ora realtà. Avete fatto il primo scalino, e quando credete di essere soddisfatti con quello, vi porta solo orrore al suo posto. Ma nonostante faccia male e vi farà venire da piangere, cercherete di fare un altro scalino e poi un altro e un altro. Non trovate pace, perché ad ogni scalino sarà sempre più confuso, sarà sempre più un caos. Ma continuate a supplicare e cercare, perché sei così affamato di verità che è più forte del dolore che ti prova quando la trovi. È un fardello, diventa un fardello che ti porti dentro quando conosci la verità. Hai da mettere i piedi fuori dalla porta ogni giorno nel falso mondo di cui facevate parte anche voi. Ogni negozio, ogni banca, scuola, polizia, biblioteche, ogni altra persona è solo uno strumento, un attrezzo nella grande macchina che ci tiene schiavi, che ti tiene schiavo. E nonostante la verità abbia reso la tua mente libera, la persona è ancora schiava, continua a rimanere un codice, uno che paga le tasse, sei sempre costretto a quelle leggi corrotte, sorveglianza continua, sono sempre lì ad un passo a entrarti in casa dalla porta principale. Sì, la verità è un fardello, ma qualcuno non è fortunato, la maggior parte non può dirlo agli amici, non può dirlo alla famiglia, dalla paura dell'ignoranza. Continua a restare in silenzio, o saresti ridicolizzato, chiamato pazzo, potresti perdere il lavoro o imbarazzare la tua famiglia. Quindi rimani in silenzio, e ci rimani, e continui a rimanere in silenzio. Ma la vostra debolezza, che vi fa rimanere in silenzio, il sentirvi strani, vi fa stare in silenzio. Ma poi decidono di non restare in silenzio. Quei pochi escono dalla tempesta e puntano il dito contro la macchina e la chiamano bugiarda, dritta in faccia, una bugiarda, e fanno suonare quella campana, ruggiscono e suonano quella campana per quelli che la vogliono sentire. Possono rompere le loro catene, fanno suonare quella campana così che quelli che la ascoltano possano rompere quell'illusione. Suonano quella campana per quelli che la possono sentire e rompere le proprie catene. Grazie per essere stati con me, spero vi dia da pensare. Io sono Gabriele, grazie a Radio Big Word, alla prossima.